faccio scattare, faccio squillare il numero del telefono di notte e anche di mattina alle 5, perché alle 5 era quello da fare la pipì, perché era provata piena, cioè. Ti faccio schiattare, parla con muro. Hai capito però, tu mi fai parlare con muro, e parlo con muro, al limite uso anche la televisione per ricevere, a me non mi rispondono. Con muro ti faccio parlare, hai capito bello bene? Allora, domani, è vera pari cosa stai facendo. Dimmi, ho acceso adesso, mi stavo riposando un po', me ne sono alzato perché non ho dormito nulla e allora me ne sono alzato e ho acceso qua, ho acceso il computer e il baracchino. Non capito, no, io mi stavo facendo un giro su internet per prendere un motorino elettrico, cazzo, ma forse meno quello per comprare il caffè che quello che devo pigliare io. Costa 150 euro ti piglio il motorino, elettrico, 1200 watt, figurati, invece quello che voglio pigliare io 50, senza paga, senza niente, costa 1000 euro. Ho capito. A me pure mi servirebbe un motorino. Adesso gira, vedo un po'. Sono più dicendo, 350 euro su Alibaba, ci sono quei scooter elettrici, 1200 watt di potenza, con un motore. Lui torci, bianco, ma bello, veramente bello. 350 euro, vabbè, devi contare che poi c'hai la metterci anche... sarà 200 euro di cose per far arrivare, questo non lo so, comunque paghi molto ma molto di meno di quanto devo pagare io. 250 watt costa intorno ai 1000 euro, si figurati tu. No, io mi prendo la moto vera, non la elettrica, non mi serve andare, capito? E guarda che vai amico, sono 1200 watt solo, non ti credi che sia. Con 1200 watt arrivi a 90 come potenza, 90 a 100, figurati, non può volare così il motore. Ormai i motori elettrici sono molto meglio dei motori normali, non puoi volare così, molto più ricetto. Lo so, ma non puoi camminare sulla strada, a me mi interessa camminare sulla strada, capito? Se mi raggio andare a Platamona, ando e basta. Non ci puoi parlare sulla strada, cosa no? È fatto parlare sulla strada quello lì, non sono di quei monopattini, è grosso, è lo scooter quello grande, col bauletto dietro. Guardatelo su internet adesso, scrivi aspetta come cavolo si chiama UFO bike e guarda, c'è uno scooter di colore bianco, costa 350 euro ed è 1200 watt di potenza del motore, non è 250 watt ma 1200 vuol dire in pratica che quello che volevo pigliare io arriva sino a 50 60 km orari, l'altro invece da 1200 passa, sarà 120, qualcosa di più, non lo so. Comunque sia, sto dicendo, costa molto di meno. Ma almeno la targa, ti ripiace la targa, basta. La circolazione non so se devi farla, questa non posso dire, ma comunque sia. Sono il babà, c'è. Basta controllare su internet, l'ho visto oggi. Devi avere lo stesso l'assicurazione, stanno mettendo tutto, per quello me lo prendo normale, dai. Vabbè, l'assicurazione del mio motore 50 costa 500 euro, questo è poco ma sicuro. Tu paghi molto ma molto di meno dell'assicurazione perché c'è la macchina, quindi a un certo punto con il motore elettrico, hai capito, paghi molto ma molto di meno. Sì, lo so, infatti. Sì, io per la macchina pago una cavolata. Pago. Aggiungo il motorino. Cosa vale già pagarci? Boh. Vabbè, già. Adesso vedo un po'. Poi lo pago un bel di meno io, perché lì vado a pagare al 3% invece che al 22, capito? E al 4 lo paghi, non al 3. Perché sei invalido, cos'è quello? Paghi lì dal 4, quindi a questo punto. Se quel motorino, questo ho detto io, viene 3,50, minimo paghi 200 euro. Fai 300 per farlo arrivare qua per l'Italia, perché è la macinese, la verità. Però è bello, veramente è bello. Se guardi su internet, te lo guardi, non ti costa niente, guarda che è uno scooter vero e proprio, non è uno scooter chiuso, hai capito? Come quelli di UFO EcoBike, che rimane chiuso, quelli vengono intorno ai 2000 euro. No, questo è bellino, l'ho visto, io pensavo che fosse normale, invece è per adulti, quindi per adulti vuol dire che ci vuole la targa, eccetera, eccetera. Capito? Se c'ho 50 euro non so niente come pezzo a base, poi per farlo arrivare, vabbè, naturalmente devi pagare non so qualche cosa, cosa ne so. Sì, vabbè, già me lo guarderò, però roba elettrica, manco la macchina, io per esempio la macchina col cambio automatico non l'ho mai portata. Ce l'avevo la possibilità di imparare a usarla, perché ce l'aveva l'architetto quella lì, ma non ne ho mai voluto portare, non mi sentivo sicuro con quella, perché la vedevo troppo piccola questa Smart, dove c'aveva il cambio automatico, il motore turbo, ma lo so, non so, camminava, perché ce l'aveva questo qui e ho seduto con lui, no? E camminava un bel. Sì, vabbè, mica lo scuoteva così, no? Quello sarebbe che facevano adesso ormai c'hanno le marce, non sapevi, l'ultima che hanno fatto della che vende di ripetere quello che c'è giù del produttore, se non qui stai la macchinetta 50, c'era la mia bandante, c'è la bandante, non la mia, quella è per Giampiero, c'ha le marce, c'hanno, quindi figurati tu, ma è bella, bella veramente. È silenzioso, ma ancora la senti, se ti arriva addosso, ma tu l'abiti tu con la brutta della mondetta. Io la dico, ma è bella, camminami, fai 80, 90, basta poi toccare la centralina, già lo sanno loro. Sì, lo so, ma io sono dell'idea che me lo prendo normale lo scooter. Elettrico non ne voglio, poi come faccio a caricarlo, un casino qua, è meglio come ti stavo dicendo io, il biglio normale, ma cosa vuoi, tranquillo. Sì, quello lo carichi, quello del 20 lo carichi, anche perché non lo so, lo carica anche se sta con la ventana all'esterno, più o meno ce l'hai sotto. Io no, io non posso buttare il cavo elettrico da 220 fuori dalla finestra e fargli fare tre piani di filaggi, ma stai scherzando. Quindi no, il garage l'ho affittato, hai capito? E quindi mi interessa più il creato affittarmi il garage. Io ho capito. E a me viene bene. Uno. Sto accendendo per ascoltarmi il QRM, oggi sono entrato due argomenti. Sono entrato per farmi in diretta, perché dato che ero da una parte all'altra stamattina, e quindi solo per quello. Adesso l'unica cosa che sto pensando è a prendere uno scooter per farmi messo solo per farmi la spesa, no, peraltro, non mi serve, non devo andare a casino, al centro storico, per dire, eccetera, eccetera. Solo per portarmi l'acqua a casa, le 3 o 4 cose d'acqua e basta. Ma peraltro. E quando mi viene prima di scuotere, infatti mi è venuto il baracchino quello grande. L'ho venduto e adesso sto aspettando che mi arrivi di cosa? Di pensamento. Hai capito? Il primo motorino che trovo, me lo prendo e ce ne tocca in culo. Infatti è che a me mi serve per non prendere la macchina, perché qui ogni volta che pigli la macchina l'ho dovuta posteggiare in casino di Montebello la macchina oggi. Non c'era un posteggio a tirare la balla in auto. Sì, è la stessa cosa identica di mia nipote. Lei abita come c'è tutta, è uguale, no? C'è posto, dico, ma diciamo vicino a via Napoli, quindi parcheggiano a Ciappi, capito? Infatti ogni volta che prendo la macchina mi tocca girarmi l'isolato chissà quante volte per trovare parcheggio, e infatti adesso il motorino me lo prendo per quello, a manco più visto quando devo andare, se no mi tocca rimanere sempre qua e non andare. Vabbè, dai, ci sentiamo Antone, che mi guardo qualcosa su internet. Sì, ok, guarda, tanto sto dicendo. Scrivi UFO, ecco, bike, e guarda, ti appare, i cosi, gli scooter, ti appaiono, cioè quanto ne vuoi. Il primo che vedi è quello bianco, 350 euro, poi tu devi costare il doppio. È bello perché è peccato per gli adulti, capito, infatti che ci vuole una tanga, se no l'avrei preso io, 350 euro, guarda, al volo l'avrei preso. Purtroppo è così, adesso è un macello, perché già con quei monopattini stavano facendo casino, perché andavano sul marciapiede, perché su strada non possono andare che non sono targati, capito? Quando non c'è la targa non puoi andare sulla strada, devi andare sul marciapiede. Quindi vabbè, quello che è, ma io già posso andare sulla strada, non c'è altra di strada lì, con motorino. L'ho visto l'altra volta il motorino, ci ha fatto tutto via Milano, ma bello, veramente è bello, cazzo, di quelli UFO eco bike che stavano vendendo, veramente è bello. Ci ha fatto la spesa, l'ho visto, poi l'ho si è andato, non l'ha fermato nessuno. Sembra biciclette, ma sono scooter, quindi prendere tranquillamente su strada, però all'interno di Sassari non è che prendere i punti e cose del genere, capito? Ma io so, se ti trovano sulla strada ti fanno cosa, capito? Per quello che te lo stavo dicendo, che non possono andare su strada, se non hanno la targa non vivono andare su strada, e a me mi servì uno per andare su strada, me lo prendo normale per quello, se no non me l'avrei preso io pure elettrico, ma per andare sul marciapiede non saranno. Guarda che cosa, è firmato sul TCS, e lì mi fermano su strada, guardatelo, un fuoco bike, addirittura c'è anche quello coperto, c'è addirittura, quello che c'ha il palabrezza, altre ruote, guardatelo stasera, ti guarda la pubblicità, lui va tranquillamente in strada, per andare in strada, per andare in mezzo ai cosi, poi passa in mezzo alle strisce pedonali, hai capito? Non è un coso, non dico non l'ho fatto, no. Quindi l'ho visto ieri, la verità, addirittura in due, ma a un'aretta a me, cazzo, passare, a un'aretta, cioè, se passi per sbaglio, cazzo, più li ammazzano, cazzo, perché non è possibile, cazzo, fanno più di 50, fanno, cazzo, mica che pompano quegli agenti. Lo so, ma sono pericolosi, non va bene, perché devono camminare sul marciapiede e succedono sempre incidenti, non fa, hai capito? Io perlomeno mi sento più sicuro al motorino normale. Dove niente, c'è un piano che pubblicità, pubblicità di quello, quello normale. Poi vabbè, quello che sto dicendo io è l'altro, ci vuole la targa, gli mette la targa, va a far culo, non importa niente, e va a entrare. Quindi ti cambia la pizza addirittura. Se vuoi quello più grosso, 1904, sai come pompa? La pompa di quelli così andanti. Molto più quello che voglio pigliare io che è quello che infatti ho visto stamattina. Mi va perfetto, 350 euro cazzo. Ho detto già dietro, l'ho corto, ho detto quello che vendo, 2002. E andrà bene, là, ci sentiamo un altro momento. Io devo guardarmi sta roba. Ciao Antonio Cruz. Ehi, tu scrivi così, UFO. Infatti appaiono tutti questi su Alibaba eccetera eccetera, appaiono tutti questi scooter sul basso che se li guardi scooter di tutto ti appaiono, anche quelle biciclette, quelle piccoline, quattro volte che prendono anche te e quante cose mentre al supermercato che non ti fanno quelli di nessuno, vai così con la busta, ti metti la busta, puoi anche rubare la roba, perché tanto mica ti controllano, cioè tutti gli scarichi come ci faceva prima. Ciao Natalie, ciao Antonio. Ciao, come va? Natalie, cosa ti stai comprando? Cos'è questa cosa sul marciapiede? No, che mi devo comprare una moto, uno scooter, una moto per non prendere la macchina. Ma poco fa ho sentito che devi andare sul marciapiede. Ma cos'è, uno scherzo? Che ti hanno detto qualche bidonata, dopo l'hai sentito? L'ho sentito che devono andare sul marciapiede se non hanno la targa, come quelle macchinette che hanno gli invalidi. Quell'amico mio non va sul marciapiede perché non è targato e su strada non può andare. Ma chi l'ha detto questa cosa? Scusa, quindi io che ho le bike anche non posso andare su strada? Ci va tutto il mondo in strada. Non ho capito, non è detto che da tutte le parti ci siano dei pezzi ciclabili. E poi sul marciapiede, è proprio sul marciapiede che non si può andare, ci sono i pedoni. E infatti ho detto, chi ha detto questa cosa? Guardate qui c'è la strada. Non c'entra niente, targa o non targa, perché il ciao targa ci aveva. Eppure ci poteva andare, anche prima che fosse dato il patentino. Lo so, infatti ci vuole anche il patentino per quelle normali, se sono 50, capito? No, io me la prendo normale, cosa? Non me ne sbatte niente di prendermi una macchina, una bicicletta elettrica, manco barricatevi, a me mi si ribanda. Sì, ma non ho capito andare dove, andare in città. Andare allo sociale a 50 km orari eccetera, non ho capito quello. Una moto normale mi serve a me per andare dove voglio andare senza limiti e né restrizioni alcune, e per non prendere la macchina, siccome qua non c'è mai posteggio, io sono nelle stesse condizioni di Marcolino Condor, che se ne teme a prendere la macchina, se no qui quando torna deve stare 2 ore a cercare il parcheggio. Io sono nelle stesse condizioni, qua parcheggio non ce n'è mai, me ne sono dovuto tornare a piedi stamattina lo stesso. Scusate me, allora guarda, più su di te, credo che sia inviato Sello, c'è un mio amico che c'ha la sua macchina, ma lui il problema non ne ha perché la posteggia sotto il mercato, mi ha detto, paga non tanto al mese, problemi di posteggio non ne hanno. Sì, residente, 60 euro si paga al mese. Più o meno dovrebbe essere così. Però c'è il tuo posto, non ti tocca nessuno. Lo so. Lo so. Ti costa molto meno di uno scooter che paga l'assicurazione. E tutte quelle cose lì. Il bollo e così via. Il bollo non lo so, lo fa anche lui sì. Sì, ce lo pagano il bollo. 60 euro, ma la macchina è tranquilla. questo, è importante che non sia gas, mi ha detto, perché essendo sotterraneo non c'hanno l'autorizzazione per il posteggio di macchine a gas, non gliel'hanno rilasciata. Però lui la mettere tranquillo. Avanti Antonè, ciao. Ciao. Questa mattina ho fatto un giro su internet, no? Per comprarmi uno scooter di quelli senza carica, no? Elettrico. In pratica. Ho visto quello per adulti. Bello, ma veramente bello. 350 euro. Soli babà. Invece gli altri scooter, quelli a parte quello che si usa quattro ruote, già avete capito tu, quello che usa gli invalidi, che possono andare tranquillamente dentro al supermercato, si fanno la spesa, quello costa 400 euro. Poi gli altri costano 1000, c'era da 1500, 2000, 2000 qualcosa. Comunque ho visto io, ma bello, come scooter, per adulti 350 euro, sali babà. Infatti stavo dicendo alla Fabio, scusa, per gli altri che sono scooter così, ti prendi la targa, e hai finito in questo scooter, così è a posto, non è che devi pagare chissà che cosa. Per 150 euro cosa cavolo copri, ho detto. Proprio l'avevo detto io per averlo. E quindi è così. No, voglio scutare il male, eccetera. Fai così, ho detto. Per caricarlo, ho detto, ma tutti ben bene. Ho pagato che buttare dentro fuori dalla finestra, dentro il capo, c'è la notte. Quando scarico, te lo scarico in 3 ore, lo scarico si è a posto, non è che qualcuno si mette a toccare il cavo reticolare 220, no, non penso che sia così scemo. No? Infatti, ma questa cosa dei 300 euro poi mi fa sorridere, perché se tu pensi che la mia batteria, che è da 500 watt, e ti assicura un'autonomia di circa un centinaio di chilometri, a pedalata assistita, sto parlando, perché molti furbacchi non la prendono, ne staccano il sensore e va anche a 40, praticamente è uno scooter, una bicicletta scooter, però è legale, se ti trovano ti denuncia. E quindi mi meraviglia 300 euro, chissà cosa ti arriva, a me so che ti arrivi, perché poi quella roba te la fermano in dogana. E se non è conforme alla legislazione europea, te la sequestrano pure, ci vedi pure i soldi. Quindi da stare molto attenti su cosa facciamo. Riguardo a quelle dei miei padri qua, ce n'è uno che la usa, lo vedo quasi sempre, e va su strada, no? Nessuno si sogna di fermarlo, certo sono 20, lo superi, ma anche quelle motorette a tre ruote, quelle sono cinquantini, quelle Piaggio piccole sono lente, e per quello non le sorpassano e vanno su strada. Quindi a volte ci sono informazioni un po' strane. Quelle moto ho guardato anch'io, che c'avevano la pubblicità in televisione, credo che siano sui 1000 euro. C'è una ditta italiana che le pubblicizza, la batteria, quando c'è una batteria qua. Tutto lì. Riprendi Natalie. Via. A me mi interessava uno scooter, magari quelli che si usano con la patente, 125, là. Poi se c'è 50, come quello che avevo io, quello era 4 tempi, comunque camminava. Era bello quello che avevo io, ma le mani mi dovevo tagliare, anche quello me lo sono venduto. C'aveva le ruote grandi, era uno di quegli Aprilia, amico, le ruote grandi, adesso non mi ricordo come si chiama, però era a 4 tempi e funzionava benissimo. È ovvio che vola a 4 tempi, Natale, infatti prendi un triciclo. Ma guarda, alla tua età, eccetera, uno scooterone così, uno di quelli lì, non so a cosa ti possa servire, poi non ho capito se ci devi fare la spesa, o se te ne devi andare a Platamona, a Portotoro, da fare il giro, ecco. È tutto lì il discorso. anche se poi ci arrivi, io ci arrivo a 4 ore con la mia bici senza problemi, però ovviamente se tu non sei allenato eccetera, o se non ti piace andare a 25 km all'ora, non lo so, capito, se non puoi girare le zampe in parole povere. No, c'è un problema alla gamba, ha una gamba, capito? È per quello che non me la prendo la bici. Mi prendo uno scooter anche 50, nel tanto di andare che ci abbia la pedana, però se mi devo fare la spesa me la faccio e la metto sulla pedana, la bici, la bici. Magari col bauletto dove metti il casco, così ci vi sta roba anche lì. Io in quel caso l'altro, se riuscire fuori avrei preferito la macchina, sarei pagato quei 60 euro e ciccia, buono tassicchio, tanto come si suol dire, i soldi vanno e vengono, a volte vanno solo ma qualche volta vengono pure. Speriamo che vengano. Oggi meno male è venuto un amico mio che c'avevo il frigo che stava andando male e me l'ha caricato. Capito? Penso di là sempre. Ogni volta assurdo. E tu cosa usi, Antonio? Nulla, sono a piedi, devo tirare una cosa elettrica, per farmi la spesa. E sono cerca di comprarmi quello che stavo pubblicizzando su PC elettrica, appunto che c'è le, come si dice, quel metro di fronte, metro plastica più che altro, per ripararmi dall'acqua e cosa dire, per farmi la spesa, non devo fare altro io. Che mi serve solo per quello. La casa, l'aerospin a casa, perché non ho le balle, lui e anche la balla in terra, per farmi due buste di spesa, sei casse d'acqua, hai capito? E ogni volta devo fare anche che ho mia sorella, ho un amico, eccetera, eccetera, hai capito? Non fa, voglio essere, cioè, io andare lì a fare la spesa, a prendere l'acqua e a fare un culo, per altro. E poi rimane in garage, non mi interessa niente, è tutto, tutto quello. Se non sarà quello con la presa, mi prenderò uno scooter di quelli ormai elettrico, da 250 watt, quello che è. Perché quello che in pratica posso usare io è quello da 250 watt, massimo 500, mi hanno detto una volta. Qui invece quelli da 1200, come quello che sta dicendo a Natalino, questa faccio 50 euro per farlo arrivare, vabbè, poi ci vorrà chissà che cosa, quello non lo so, lo bello solo di babà, ma è bello però come scusa. Elettrico, anche 1250, 1200 per un bemi. Arriverà a prezzo 80 euro di un'ora, una cosa del genere, forse anche di più, non lo so. In confronto con i 250 di queste cose qua, io penso che sia 250 quanto, non ti posso dire, quelli stanno usando adesso, che ti passano mezzo la strada, in due, tre. Io penso che il motore elettrico è una cosa allucinante, mi porta più del motore del carico, da quanto ho visto io. Ok, comunque da noi ogni tanto viene, credo che sia una specie di corriere, che c'è la bici elettrica con attaccato un carrello, ma la sorte è anche da doppio. Ogni tanto viene, porta pacchi, ovviamente non sono pacchi grandi, perché il carrello non è grande, è una e-bike, quindi. E dietro c'è questo carrello, in tutte le altre ruote praticamente, no, anzi sono due, tre, una, quattro ruote, due della bici e due del carrello, sarà agganciato in qualche modo e funziona così, si può attaccare il carrello, l'importante è che non sia più alto di un metro, un peso massimo credo sia di 50 kg, se non ricordo male. Può andare su strada, cioè deve andare su strada, è impensabile una bega, ma vai, ma capire una cazzata, mi chiediamo se c'è la pista ciclabile va bene, ma se c'è il marciapiede guai, se ti sono i vigili tentate questa oppure quindi non fa, deve andare su strada. Quindi Natale si possono comprare quella lì, da attaccare il carrello e oggi ci metti tutto quello che vuoi. E non mi compro una P50 per quello. E ce l'avevo io la P50 quando c'avevo il laboratorio, ce l'avevo, era bella quella che avevo io, sta cassonata. Sarebbe la Pino, no? Quelle che è salita fanno tutto quel casino. Vabbè, io l'avevo truccata e camminava qualcosina in più. Adesso quei tempi sono finiti. Guarda, proprio ieri era domenica, quando era sabato, siamo venerdì. No, aspetta che sto dicendo un sacco di festive che rimbambito, sì, venerdì, quindi ieri ne ho visto uno, stavo rientrando a casa la sera, che era un servizio di sera, e ne è arrivata, e ho accorciato la stradale correndo, senza fine, senza niente, e stava inseguendo questo ciclomotore, motorino, questa moto. L'hanno raggiunto di lì al passaggio a livello, no? Dove c'è Tanit, ma ti posso assicurare che le hanno letto la vita, eh. Le hanno controllato anche ogni singolo peluzzo che c'aveva in testa, e quella l'ha presa grossa sicuramente, sono stati ore e ore di lì, probabilmente stavo pure aspettando il carattere a portargliela via. Quindi adesso mettere mano anche alle bici, a Milano so che hanno fatto una retata di bici elettriche, che le avevano modificato il sensore, quindi a posto di andare a 25, andavano intorno ai 40 km all'ora, quindi non erano più le bike, ma erano ciclomotori elettrici. Ma hanno pescato un bel, credo che ci siano intorno alle 600 euro di multa rispetto al mezzo. Quindi a vedere se ti conviene. Sì, non penso proprio, ecco perché io mi voglio prendere una moto normale, cosa me ne frega, me la prendo normale la moto, se la trovo come quella che c'avevo cammina anche troppo, figurati, c'è la pedana, poi avevo il bauletto io, ce ne stava di roba lì. Lo scuserò, ma dici? Io ho la patente A, credo, adesso non so come diavolo si chiama, è tutto cambiato. No, 50, io ce l'avevo 50, era 4 tempi, ma era 50 di cilindrata. E non era toccato, camminava un mese, era 4 tempi, ma premevo il pulsante e subito metteva in moto la mattina, era bellissimo quel, della Triglia era. Lo scarabeo, ecco qua, lo scarabeo 4 tempi, 50, c'aveva le ruote grandi, era bellino come moto. Adesso serve un cecco, la motovella, poi prendo e ci metto quell'affare che usa il po', che portare i pacchi dietro, il fratellino, quindi ti faccio un giro. E se no mi posso permettere anche lo scooterone, tanto io là ce l'ho, ho tutte le patenti, mi manca solo la E, mi manca, per portare l'articolato, tutte le altre ce le ho, fino alla D, posso portare anche i pullman di linea. No, io ho dato tutto invece, io c'avevo tutto lo stesso, però mi sono sbarazzato di corsa perché... facciamo la visita supplementare e poi non me ne faccio niente, oramai ho passato quell'età, te la tolgono a prescindere, no? Quindi ne ho preso la normale B, ce l'ho preso, me l'ho fatta ridurre a B, così c'ho meno seccature, meno casini e tutto. Faccio quella lì, adesso da tale età ogni 5 anni. Non ricordo male, sono ogni 5 anni. E buona tazza. è stato tranquilli, sto prendere con la macchina, non è un problema. E tu l'hai vista Antonella, quella che dico io, quella che c'ha col corriere, quelle bici toccate lì, no? Sì. Io ho detto, ho visto un tipo che si è fatto modificare la carrozzina, capito? Si è fatta tre ruote, cioè in pratica due dietro, e si è fatto mettere il coso della bicicletta, ma tu dovresti avere come pompa, cazzo, è una cosa allucinante. Poi una volta arrivato di lui, tu prendi, si accende la carrozzina, abbracci per la spesa e poi torna indietro. Hai capito? Fatta la cena, ma è scemo. Si è fatto modificare la carrozzina, quella normale, quella così in ospedale. Hai capito? Lo so, ma quando parli di modifica, adesso anche i vigili urbani hanno l'istruzione del controllo, capito? Se ti fanno occorrere una cosa del genere, non è, sai, se accorgo immediatamente, e ripeto, fuori il gioco non va a candela, la gente si crede un bel furba, ma ho detto che i controlli ne stanno facendo un bel, sono veramente tanti, è così, quindi Natalie, ma non hai pensato di comprare il cavallo col calesse? Natalie, sempre in discoteca, non ho capito se sei a casa o se sei in qualche locale notturno o pomeridiano, guarda, a voce non si sente questa musica a tutto volume. Qua c'è la radio, una radiolina di quelle a batterie che è in cucina, non è manco qua. Adesso hai capito perché esistono i microfoni con limitazione del rumore, sì, per le radio. Oi, ma figurati allora se quel microfono mettevi su un'aerea America, quanto sentivano i piloti, cosa succedeva? Sì, infatti, adesso me l'ho avvicinato perché so benissimo che amplifica più la radiolina di mia moglie che in cucina lavando le tombiglie che la radio mia. Per non ammettere il microfono normale, perché tenere questa cosa in mano. Ti ricordi quando abitavo in questa vita di Emanuele? Quando prendo la portante che entravo in bagno, urtava Simona, si sentivano gli scorreggi, tutti, quando scaricavi l'acqua si sentiva tutto, te lo ricordi? Ero in cucina, nella camera a fianco, perché erano tre camere, e una faceva la camera a letto e la soggiorno, l'altra faceva la bagno e la cucina, te lo ricordi? Ehi, zitto! Adesso c'è anche il cane che magari si sente più di me. Sì, e questo è un microfono di quelli da tavolo, vecchi, e purtroppo ha quel difetto. È una radiolina veramente di quelle piccole, a batteria, e ce l'ha mia moglie lì, in cucina. Figurati, non è manco qua quella radio. Il televisore è spento, è proprio la radiolina di mia moglie. Ma è allo stesso volume della tua voce, quindi magari se non ti ascolta basso il segnale, sente la radio, non sente a te. Guarda che adesso ho abbassato il microfono, meglio va. Adesso un pochino meglio. Forse ci dovresti mettere qualcosa davanti, dovresti rendere bidirezionale, magari mettendoci un tubo direttivo sulla bocca, in modo da escludere un po' il rumore ambientale, perché sennò non serve a niente. Sì, infatti, me l'ho dovuto avvicinare, ma dimmi tu. A quel punto tanto vale il microfono classico, se devi farti a inchinarti pure che ti fa male la schiena. Vero Antonio? Ah beh, quello sì. No, io ho il MP4, la verità, quindi l'unica cosa è il salento, se ti ricordi, con la ventola. Strano, adesso lì, che momento stai andando bene. questa verità, non so più quel capo di uno di prima, prima, prima, ti dico di prima quando l'accendevo, che erano cose avvicinate, non me lo avessero, ma diminuito, non è che di parecchio. Ma forse si è stimata l'estate che fa vedere di quelle alimentatori cinesi. Ce l'ho anch'io l'MLP4, ma è uguale, è la stessa cosa. Non so che c'è la stessa identica cosa, cioè, se ho avuto io l'MLP4, ne ho venduto 6, questo è il settimo che ho io. E occorre un microfono con un compressore e con riduzione di rumore. Lo so. Qua a Sassari non vendono nulla. Bisogna ordinare da fuori. Sì, qua oramai. Oh, Antonio, mi è capitato di passare lì in via Carlo Felice. Io ho visto sempre quel negozio. No, più che un negozio di elettronica, mi pare un negozio tipo di bar, quelle cose lì. Tutto scattoloni fino all'ingresso della porta, non so neanche se si possa passare. Boh. Ah, l'Antonino? Sì. È diventato un schifo l'Antonino. Niente dentro, tutto scattoloni, non sa dove metterci la roba, tutto pieno di mondezza in terra, ma sai quanta roba c'è da buttare lì? Se tu vai con una pala lì, con una motocarrozzella, non sai quanta roba ci butti, direttore. Non ha mai lavato, ma quando è morto la moglie non ha mai lavato in terra, tutto nero, nero dalla polvere e cose del genere. È una cosa che diceva, per dire che abbia chiesto a Antonio, guarda, cercami qualche ragazza per fare pulizie, oppure due ragazze per togliere tutta questa mondezza, buttarla, cosa posso dire, il martedì mattina lì alla quadrata. Nulla, è diventato un troiaio, è stato di negozio, guarda, io non so come faccia lui a vivere così. Io sarei morto, perché cazzo, a un certo punto non è possibile che tu appena entri per tutta quella roba lì. Ma confusare così, guarda. Lui quando c'era la moglie era totalmente diverso, la verità. Era tutti i giorni pulito, veniva la donna delle pulizie, c'era lui, c'era quel ragazzo, eccetera, eccetera. Adesso c'era almeno 7-8 anni che non lavo in terra, non passa mai con la scopa in terra, nulla, prende, apre e basta, hai capito? E vende, scatoloni, apre, scatoloni può prendere, per dire, un pezzo per volta, quando gli scatoloni sono vuoti ti piace buttare fuori. Scusa, dato che penso che sia più grande di noi, ma perché non se ne va in pensione? Dovrebbe andarsi di pensione, perché lui ha problemi seri di coso, hai capito, Tonino? Ha molti problemi, hai capito? Quindi la presa male, cioè da quando è morta la moglie, lui la presa male. Lui in pratica anche lui non sta bene a quanto mi hanno detto, quindi a un certo punto si sta lasciando andare, capito, con questi capelli lunghi, tutti si sta lasciando andare, non ne so più niente. Un giorno che lo troveranno con le maiocchine, eccetera, eccetera, dentro casa, allora vedrai qualcuno prenderà il negozio e ti darà meno 3 mesi, perché non è possibile. Svuoterà tutto, una volta svuotato tutto, eccetera, eccetera, rimesso tutto a posto, allora sì che si potrà vendere, se no è inutile. Non vende più componenti, non vende più niente, non gliene frega più niente di componenti. Vende solamente di roba così, la vende la veloce e basta, non vende altro. Me l'ha detto lui, cioè a me dei componenti non ne frega più niente, mi ha detto. Vabbè, tu sei sotto le ferite, va bene. Io sono andato col bancomat, ho detto tu niente, l'ho più detto il cavo, ho detto. C'è un bancomat. E io il bancomat non lo uso, mi ha detto. Se ne porti dice tra la settimana o domani ci sono di contatti. Ma tu sei matto, gli ho detto. Tutti c'hanno il bancomat. Metto un aereo, ho detto. Thank you. c'è la massa a 35-40 gradi, una cosa del genere. Avete fatto una specie di boomerang, avete fatto. E ci è andato bene, ma si è fatto così. Non lo so, vabbè, buon per te. Se no, se tu busi una di quelle antenne vecchie, tipo quella che c'avevi prima, si modificano e non so come aiutarti. La verità, se c'hai ancora quell'antenna vecchia, te la modifico e ti salvi quella un po' a me. Non mi costa niente a me modificarla. Ho capito, vabbè, tu vabbè, se sempre ti ha bloccato una patallata qui a un certo punto. Il discorso è quello lì. Se tu avete comprato un non ti posso dire una game master di quelle fatte in casa con la canna pesca, va a fanculo. Tanto che ogni tanto su fai 6 mesi da una parte, 6 mesi dall'altra, stacchi, abbassi il palo, prendi una parte e ce la porti dall'altra, e questa è quella che stavo dicendo. Ci sono su YouTube, c'è il disegno, non costa niente a farlo a me. Ci sono, c'è la guarda che matta a me. Costruita, autocostruita, però bisogna saperla fare. Io infatti la volta perché non aggiungavo di fare nulla, la verità. L'autocostruita, non mi interessa, capito? Quindi, però se trovi una gemmata di magari o un coso, qualcuno che ti ha un'antenna, che poi si trovano mettiato di quell'antenna da tutta legge qua da Sassari, basta fate un giro, fate in qualche condominio, se sale su quella mola, si butta giù il palo e ti porti via l'antenna intera, cazzo. Vabbè, quello sì. Io ce l'ho quella volta, ma piazzata, figurati. È ancora resiste, c'è un anno sopra. Come dicevo io, sei arrivato a Stefano e Stefano ha fatto di troppa fino adesso è piazzata lì l'antenna. Figura che avevo sistemato io in campagna, l'antenna lì. E c'era lui stazionale, figura di tutta ben modificata, lubrificata, messa i radiali come si deve. Messa a nuovo era, figurati tu. E vabbè, cosa vuoi che dica? Quello l'ho comprato da Turbo, perché la 5 no, non saranno. Attenzione Pomponio, si ascolti questa piccola stazioncina, cambio basso. Chi è che mi chiama Dante? Allora se mi ascolti sì, ciao Antonello. Ehi, a basso ma dove ti sento? Ehi, anche tu già sei basso di persona, gonfiato ti sei, di la verità. No, capito. Ho detto se ti sei gonfiato. No, non mi sono gonfiato ancora, sono sempre gonfio, non sai. A meno che non mi fai gonfiare tu, passa qua a casa, io fino a birra e ci gonfiamo assieme. Andare, ciao Antonio, dai che sono in viaggio, ci si riascolta. Saluto l'altro amico che lo sento basso basso. Ehi, va bene, quando vuoi non c'è problema. Già sono qua da Chino, ma sono fatti chiamare al telefono. Andare, ciao. Ah, grazie a me. Sì, Antonio, ti saluto, mi ero tanto un attimo, Ci sentiamo, saluti anche Natalino. E mi sa che non tutto è chiuso, la verità. Quindi, a un certo punto, vabbè, ci devo lavare già fra. Senti, dai, fammi bene, buon tutto, buon corretti a domani. Ok, Antonio, buona serata per adesso, ciao, buona serata anche a Natalino, se l'ascolto. Alla prossima. E io, ciao. Thank you. palazzo l'antenna pure. Fabri, male, ma non male, non di più. E poi fuggi. Aspetta, però non ho capito niente. E adesso? Adesso è migliorato, Fabri, il radio, però c'è sempre un trattino in mezzo. Fa così, capito? Io sono in viaggio, ti ascolto con il porta con il veicolare. Senta che c'è un vibratore. Antonio, adesso ti ascolto bene. Eia, ciao, sì, sono tu. Ciao Giulio, me l'ha ascoltato anche a te. Dai, zona Frattamona. Ciao Tino, come vai a Frattamona? Sto andando di zona rossa, Fabri. Di zona rossa e poi giochi d'acqua, là, perché è l'ultimo giorno. E lì a... come si chiama? Acqua Fantasy. Ho capito. Sto uscendo bene, vero? Oh, scarichi, sì. Giulio, a me mi ascolti bene? Benissimo, ti sento. Ciao Fabrizio, sta uscendo un basso di radio e con un grido continuo, a sintonia continua. Adesso forse no. Adesso è migliorato molto, adesso è migliorato moltissimo. Però non è perfetta, perfetta secondo me. Guarda, abbassa l'amplificazione, Fabri. Aspetta, abbasso un po'. Ho abbassato un po', come va? Dal giorno alla notte, benissimo. No, ma lo vedo che non saliva proprio, non spingeva. Ho toccato l'interruttorino sotto, forse a furia di rimanere fermo. Questo microfono. Adesso va bene, Fabri. Meglio così. No, perché c'ho... Mamma mia, il gatto dove sali tu, ia. Se c'è fermo, va bene, da te. Adesso ti pisci al microfono. Ecco che riprendo. E che parte sei? Ciao a tutti, Tino, da che parte sei? Qua, sto girando adesso per... come si dice? Per... Sosola, diciamo. Vediamo se dove ti portiamo. Tu lo ascolti un po'. Se ha voglia, te lo ascolto. Io c'ho un gattino e mi sta, fra un po' mi forse la lui, sta entrando da tutte le parti, fra un po' mi brucia tutto. Aspetta, c'è il microfono, vedrai tu. Aspetta un secondo, che quando si mola, è peggio del gatto. Giulio! Sì, ci sono. Ancora per qualche minuto, dopo credo che debba uscire, non lo so. Va bene, no, ma adesso sta andando bene, poco fa io me ne rendo conto, perché questo apparecchio l'avevo fatto in maniera tale che metto 10 watt e te da 70-80 di picco, quindi mi sembrava strano, ma che cosa strana, e invece poi ho toccato gli interruttorini sotto nell'MC60, si è stata apri e chiudi ed è tornata a posto, probabilmente a furia di rimanere fermo era un po', poi gli metto un po' di quelli qui per contatti. Sì, è probabile, magari ci si è formata un pochino di virus e faceva quel difetto lì, no, ma adesso sta andando benissimo, non c'è problema, adesso alla grande. Il segnale fortissimo lo stesso, 9.15 e oltre, forse anche 9.18, per cui va benissimo così. No, ma lo vedo, io lo vedo, infatti stavo per qua, stavo fiscando e chiedendo, perché lo vedo da Usmitter io quando c'è qualcosa che non va. Poi già sta in componente, ma non sarà quello, vabbè, guardate che vada bene. Vediamo.